sempre al quadrato, tanto, tanto tempo fa, mi ricordo che era al quadrato. Signor Mario, i locali erano di, sono di Omar quelli, il locale è quello di Omar attaccato al capitanoncino. Signor Mario faceva le moto, sì, vuol dire che lo chiamava Omar a dargli una mano, ma signor Mario ancora oggi l'officina non ne ha più, però se lo chiami, io avevo un problema che non la moto non mi partiva e c'era un problema sul corpo dell'iniezione. Ci sono andato, me l'ha messo a posto lui, perché Omar non ha bugato bene, me l'ha messo a posto lui proprio. Prima che aprisse il capitanuncino, Mariani aveva l'officina proprio dove c'è il capitanuncino e l'ha tenuta un po' di anni lì, l'officina aperta, forse non c'era neanche Omar ancora a fianco. Parlo di tanti anni fa. No, non c'era Omar, io me lo ricordo, io l'avevo portato a Mariani, mi aveva cambiato i rulli, l'SR, perché ho avuto anche l'SR della piglia. Sì, ve lo sto dicendo, signor Mario era lì, ma i locali erano di Omar, signor Mario pagava l'affitto a Omar, ok? Omar era dipendente e si è messo in società con Alessandro, quello di Viale Porto Torres, e poi si è preso, quando il signor Mario è andato in pensione, ok, lui si è preso il locale e si è aperto l'officina a conto suo, e c'era la revendita anche delle moto, plurimarche. Aspetta, ma Omar aveva preso, aveva comprato il locale dove è attualmente, ma il signor Mario era a fianco, il signor Mario era al posto di Capitanuncino. Il signor Mario aveva detto al posto di Capitanuncino e Omar quei locali ce li aveva chiusi, ok, chiusi, nel senso non ce l'aveva l'officina e il negozio. Quando poi il signor Mario lì ha chiuso, ok, ed è nato Capitanuncino, Omar, siccome quel locale è il suo, di famiglia è il suo, perché lo so, ci conosciamo con Omar molto bene, si è aperto l'officina sua. E chi glieli ha venduti quei locali sono i fratelli di Babbo. Esatto, me l'hai già detto, sì. Omar è un bravo meccanico, bravissimo, ha risolto un sacco di problemi. Il rulli e la centralina me l'aveva messa lui nel T-Max, poi mi aveva messo la marmitta nell'X-Max, ecco X-Max 250 era l'ultimo che avevo avuto, già che poi ho venduto, ce l'avevo sino a 2 anni fa, e mi aveva messo la marmitta lì e poi mi aveva anche sistemato il coso, l'altro che avevo, quello piccolino, il cinquantino, che era di mia figlia, che usavo per fare commissioni, capito? È molto bravo Omar. Sì, io quando avevo comprato il TT ero passato da Omar, se lo provava per darmi un parere come lo sentiva e se aveva fatto il giro del quadrato. Sì, ci conosciamo da sempre anche con lui. Sì, io ho visto che c'è lui, c'è il BMW quello grande, c'è Mar Transalp, lui era innamorato, lui lo stava cercando perché c'erano due amici suoi, esattamente, Marco Secchi, quello di Porto Torres, che siamo molto amici perché siamo nati appunto nella stessa strada, poi la scuola con me, Marco, fratello di tutti, che fa motocross, che è morto, vabbè, Marco lo stesso fa motocross e Virgilio Balzarini, c'erano tutti e due il Transalp, lui quando usciva con loro c'aveva il BMW quello grande, quindi era molto più ingombrante e ce l'avevo sempre al costa, io me lo dai, un giorno c'è la tua balletta, io cosa me, non voglio soldi, che cambio facciamo fare? No, non ne ho moto da darti, no, ne voglio moto, mi sono rotto le balle. Cosa c'hai? C'è una bella Peugeot 306 che avevo io per, adesso c'è il furgone, quindi quella non lo so più. Cos'è? Van? Sì, van, sono andato a vedere la nuova, bellissima. Hai un cambio? Dai, cambio. Allora, domani mattina ci vediamo per fare il passaggio da Ricchi. Siamo scesi da Ricchi, via Vanno Basso, abbiamo fatto il passaggio di proprietà, tutti e due. Io mi sono preso la macchina e mi sono preso la moto. Contenti tutti e due, e avete fatto bene. Ma io me lo ricordo, Omar che aveva un Beta 400 e faceva le gare di Mottard ed eravamo scesi a supportarlo a coso, al campo che c'è a Tramazza, alla pista di Tramazza, eravamo andati a fare tifo per lui. E poi usava molto andare a fare cose, quelle molto strane, come si chiamano, quelle che saltano sulle pietre, quelle da mi sfugge il nome, quelle moto che sembrano tre cicli, ma vabbè. Comunque faceva Mottard col 400 e poi c'aveva quelle altre moto strane che saliva sulle pietre e saltava da una pietra all'altra. Trial! Sì, trial, ma c'è ancora, lo fa trial, ce l'ha dentro il furgone, quel furgone giallo che c'ha, con tutte le scritte le moto, quello di lui, quello piatto dei segni. Omar ha vinto il campionato di trial, proprio lì nella zona di Nuoro, andava sempre, ma ha visto il braccio che c'aveva, un fisico micidiale, cioè non capisco come cacchio faccia una torella con la moto, ce devi stare sempre in piedi, cazzo, ne ha rotto le balle, se dire non ha che c'è moto. Claudio, ciao Tore. Dimmi già, ciao Tore. Buonasera. Allora, facevo tutta la spiaggia, si deve arrivare alla torretta, non so se sei pratico. E lì scendevano due ragazzi con la moto da trire e salivano sopra le rocce con le alte e cazzo, poi non se ne scendevano, arrivati in punta, li muovevano in piedi, la giravano sempre sulla moto e scendevano. E una volta c'era gente che gli ha detto cosa, perché dice che stavano facendo fuga e portavano la sabbia in alto come slittavano le ruote, eccetera. Ma venivano quasi sempre, siccome c'era una spiaggetta molto intima, ci stavano due persone, io ci andavo con la mia ragazza lì e si stava bene, dai. C'era anche un capo di nudisti. C'era un capo di nudisti, anche mondo è mondo. Portoferro, la parte iniziale no, ma adesso a metà proprio ci sono le cose, gli affari tutti in legno, c'è il cartello, non hanno visti, quindi dopo quel cartello sino ad arrivare alla torre puoi trovare gente nuda, maschi e donne, è normale, ma è dichiarato, è ufficiale, se guardi i siti di Portoferro c'è anche scritto. Negli anni che furono era un po' così a Pascolo Brado, ma adesso è dichiarata quella parte lì della torretta, è zona nudisti, capito? Quindi non è che ci può andare pura. Tu a vederti un culo, però non è che puoi portare i bambini, perché c'è gente che colpisce lo fuori. Ciao, solo una volta si avvicina a Turma, ha detto mi dà fastidio se stiamo nudi e cosa. E io ho pensato, vabbè, adesso vediamo come la moglie. E la mia ragazza mi ha detto, ma il disegno tu, perché la cicciola era brutta come la morte. E ho detto, io non ho problemi. L'interessante è che io non stiamo posto solo, non ho nessun problema. Rispetto a tutti. Beh, normale, è chiaro che ci vuole il rispetto. Se uno è... piace la natura, è giusto così, ma è una cosa normale, non è solo a Portoferro, ci sono tante spiagge che hanno questo tipo di ricevimento, però chiaramente stiamo in lontano, perché fino a quando vedo un culetto di una donna mi sta anche bene vicino, ma vedere il tuo mangaglione non è che mi interessi più di tanto. Mi altro, non si può che rompi. Vai Tore! Era di fare di moto e ci si dice di... Buonasera a tutti! E ci si dice di... a Mangaglio! E avevamo buccato le gomme, Tore! Avanti Luca! Vero, era mi va vedendo la moto da cross e ci siamo usciti a far vedere di manubri di altro tipo, per carità. E va bene, già va bene lo stesso. L'importante è stare con le spalle attaccate al muro. E poi mi ricordo che si facevano i fanghi, c'è una un'argilla lì, una sabbia argillosa, subito dopo dove andavamo noi, e praticamente ci andavano questi gay, si capiva che erano lì da come parlavano, da come si comportavano, e si facevano i fanghi, dai amore, spalmami il fango a me. Mamma mia, però userete, no, mi è capitato qualche volta di andare lì, io e mia moglie, però rimanendo proprio dalla parte al di fuori del trascennato, già, ma c'è il cartello, quindi se tu vai su per il cartello te li fa nudo, a chi non ti va di entrare, capito? Non è che puoi andare lì e stare in costume e guardarti gli altri, anche tu ti devi denudare, quindi non è assolutamente il caso. E vabbè. Caro Antonio, così è la natura, quella è ecologia, capito? Sono persone che gli piace così, cosa vuoi fare? È così e basta. Mi piace già andare così freddi, Kimi. Ma te ne domani con l'ombrellone. Non sarà solo questo, già, quindi sarà di Sirocco, mi dice. Non ti preoccupare, non è solo questo, no, nella faccia della terra. E vabbè, ho detto Rocco perché si sa. Poi dicono, Rocco ha detto che anche tu ti è superdotato. Ehi, andiamo ai vecchi, ognuno si tenga la gioia, cambiamo discorso. Comunque, tanto sono naturalisti, capito? Ed è più che normale, ci vuole il massimo rispetto, sia per loro, per i gay, per le persone che vogliono apprezzare la natura in quella maniera, non tutti siamo uguali, è così, non c'è niente da fare. Avanti Luca, poi vai per Torre Squalo, siamo con Luci Morsica. E io c'era il periodo che scendevo, quando avevo, tornando alle moto, avevo il TT, Yamaha, e scendevamo lì a Portoferro per fare tutti quei, come si chiama, frangifuoco, tra Lago di Baraz e la spiaggia, e giravamo lì. Adesso quelle dune sono diventate protette, non ci possono passare né moto e né macchine fuori strada, perché prima c'erano tutti i percorsi, adesso hanno vietato tutto, e quella zona ci andavo anche in inverno, nelle belle giornate la sabbia era più dura perché in inverno con la pioggia si compatta, e ci siamo divertiti molto lì. Poi invece hanno chiuso tutto. Avanti Torre Squalo, ben sentito. Se parliamo di moto, negli anni 70 KTM, non so se l'avete conosciuto. Io ho voglia, l'ho anche guidato io, ce l'avevo l'amico mio. Io ho voglia. KTM 250, 125 e 50. Allora, io avevo un amico che era in Beta, uno è KTM e l'altro cosa c'aveva? Scurva, muro, non mi ricordo come si chiamava. E andavamo alla pineta che c'è vicino alla Gradia a fare motocross lì. No, io ne facevo motocross, avevo il Molini 250, ho avuto il Girella 250, e poi da lì mi piacevano quei tipi di moto, avevo preso il Transalp, ma il Transalp era troppo grande. Comunque sono belle moto quelle, se ti piacciono, le sai guidare, stancano molto, ma se hai la passione di quel tipo di moto, sono bellissime moto. Mariani che non pigli. lo so, lì lo puoi fare quel tipo di quel tipo di moto, la puoi avere quando sei un po', insomma, ragazzo, che hai braccia forti, eccetera, allenamento e via, ma quando inizi a avere una cinquantina d'anni e già la muscolatura tende a calare, è difficile tenere una moto del genere. No, Luca. Vabbè, io ho un amico che lo fa ancora, c'ha l'età nostra, qualche volta va. Già, ma vuol dire che ha una preparazione, insomma, ha sempre fatto palestra, si è sempre tenuto in allenamento, eccetera, ma cioè pone di duo io a guidare una moto del genere, puoi fare un giro così in città, ma non è che vai a fare motocross o te ne vai a fare lumacco, perché ti fa la bubua, capito? Ti fa la bubua forte, perché non io seduto nella sedia, vado a alzarmi, mi detto vieni che ci prendo per il caffè con Cina. Sono andato a alzarmi dalla sedia, anche se mai un vecchio, tutto quanto insaccandomi. Già, io so tutto quello che hai tu, ma credimi, sto diventando peggio. Io mi alzo la mattina, mi devo sedere qualche minuto nel letto e iniziare a muovere bene le gambe, perché sembrano addormentate. Eppure ho fatto tante di quelle visite, non c'è assolutamente niente, è proprio la muscolatura che non ce n'è più, sono pieno di artrosi, di lombosciatalgia, c'è questa polimagia alle ossa, non c'è più cartilagine, un casino di Gesù Cristo, tutto il freddo, il gelo, il lavoro che facevo, un casino, e vabbè, pazienza, ci sono le medicine, ci sono le cure, stanno andando avanti così, se mi fermo di ridotto, si va bene luci, l'importante è che funzioni la testa e il pistolino. Aia. Io la verità, quando ti ho detto che sei seduto nel letto, lo faccio anche io, perché a volte mi alzo e perdo l'equilibrio, allora devo restare un po' seduto e poi quando mi alzo l'equilibrio lo acquisto subito, perché se no faccio di colpo, sbando. Uguale, già preciso, uguale. Cos'è a tu che stai dicendo? Io? Stavo facendo un po' fa, che con la moto mia, anche se è piccola, una volta ci sono uscita a Badese. Ma lo state notando, Antonio? Antonio, mi vai da 9 più 10 a 7 e poi torni a salire. Ma non vai a HPL che non funziona di 20, vero? Io negativo, questa è la radio, mi stanno girando le mani. Ma che tu mi sparisci ogni tanto, lo sai? Deve essere questa radio che mi sta rompendo le palle. Hola. Strano. Ma è quella che ti ha girato a Torello? Sì, è questa qua. Ha un difetto prima, adesso non lo fa più, però ci avrà altre cose sicuramente. No, già, voi non ve ne accorgete perché siete talmente vicini. Qua io me ne accorgo, non è che sono io, è proprio Antonio che scende, automaticamente le manca anche la ricezione. Magari non se ne accorge perché voi siete vicini di arrivare a fondo scala. Com'è Antonio qua? Quando modula è 9,5-9,10 modulati, e poi mi scende a 7, poi torna a salire. Adesso sei fisso a 7, Antonio. Fisso a 7? Davvero? Sì, Santiago 7. Santiago 7. No, cazzo, adesso vado a guardare. E qua in effetti è sempre così, lo stesso segnale, perché forse siamo vicini e quindi non mi rendo conto io. Vabbè, non ci avevo l'occhio sullo Smith, perché stavo parlando con la testa alzata, sono coricato nel letto, stavo parlando con la testa alzata, quindi non stavo guardando lo Smith, però è difficile che te ne accorga quando sei così vicino. Ma io già me ne abito, sì. La radio c'ha problemi ancora, non lo so, io già me ne accorgo purtroppo, non solo di lui, di tutti quando c'è un problema, vi avviso subito, perché sono lontano e quindi il segnale cala tantissimo, poi si porta appresso anche, si porta appresso anche un fruscio, quindi c'è qualche problema nella radio. Avanti Tore. Si abbassa, di voce si abbassa. Prova a vedere con questa qua, com'è? No, questa c'è 9 più 10. Scappa. Allora c'è qualcosa con la radio, mi sta girando le balle. Io ti dico perché non voglio mai rifare danno. Questo è segnale tuo, la radio è tua, tutto a posto. Scappa. Eppure voglio vedere una cosa. Adesso la mando importante. E voglio vedere se scende dallo strumento. Aspetta che commuto. Tanto che sta facendo le prove. Cioè così, a me arriva, si abbassava del volume, si abbassava. Non intendiamo poco. Abbassa abbassi di volume, il segnale non ti si abbassa perché sei vicino, e quindi il problema è quello, ma io lo so lontano, si abbassava sia di voce che di segnale anche. Luca, sei rientrato? Papà, sono rientrato, ero andato a bere. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Antone. Voi, eventuali altre persone, Luca, pochi c'è. E Luca, Antonio, io, Claudio e via dicendo. E lo salutate e via dicendo. Ora so che c'è altro, tutto qua. Bene, Rida, ok. Guarda a vedere qua, abbassato, ah. Buonasera. Adesso sei 9 più 10. Che c'è il radio dei bizzi, non succede niente, perché è lei che sta rompendo le scatole. C'è un messaggio dello strumento che sta andando. Sta un pochettino rompendomi le scatole. E io ho tirato una pulsata. E scusi, mi raccapo, guarda che la bocci. Gappa, avanti Tonino, allora riprendi, questo è l'ultimo entrato, ci sono io, Antonio, Gianni, Luca e Ettore Squalo, vai. Gappa, bene, bene, avanti Antonio, no, Antonio ha parlato di senso, dai, e Luca, dai, che è più disastro, cito poco e niente, avanti Luca. E io sto ascoltando voi e mi sto guardando le inserzioni in internet di apparati, di lineari, di microfoni. Mi sto facendo una cultura guardando sopra, anche da Facebook ci sono molti che vendono, c'è questo IRAI 2, questo Mascar Radio, ce ne sono tanti che vendono, dicono con garanzia, però non so l'affidabilità che possono avere. Allora, IRAI 2 ci conosciamo perché siamo conosciuti in fiera, lei è una bravissima persona, io mi servo della Mascar, ok? Ho preso l'SM20, ho preso una radio, prendo tante cose, l'SM20 me l'hanno dato garantito, ce l'ho già diversi qualche anno e funziona perfettamente, quindi ti consiglio più di RAE, ti consiglio la Mascar, ok? Mi chiedo un attimino di bianco che vado a chiamare mia mamma perché se si addormenta poi non posso più telefonarla, capito Luca? La Mascar è molto affidabile. Sto guardando la loro pagina, c'hanno un sacco di roba in vendita, ne vendono tante, ma tutte cose aggiornate. Sì, una buona azienda, io tratto molto con loro, ma non solo io, tanti radioamatori. Poi li ho conosciuti anche di persona quando sono andato alla fiera di Novegro, capito? Quindi se vuoi c'ho anche l'aggancio, ti do il numero, se vuoi saperne di più, li chiami e senti di persona al telefono che cosa hanno, capito? Riprendete un attimino che devo fare una chiamata a mia mamma. Non è più nessuno, che capita. Ok, Bocorix e Claudio. Avanti Gianni. Sì, io sto entrando per salutarvi che sto portando giù il cane che mi sta chiamando, vuole scendere. Vi saluto tutti cordialmente, mi dispiace ma devo andare. Mi dispiace già rompere il posto, ma il dovere mi chiama. Scappa è più che dovere quello lì. Quando chiama Tyson è punto. Ok, d'accordo, ma qualità allora, momentaneo, poi se interpretare ci sentiamo a casa. Ok. Avanti Antonio. Capa, dai, ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao di nuovo. Ciao, ciao. Antone, di prima. Ciao Gianni, stammi bene, alle prossime, a risentirci. Ok. Dai Luca. Ciao, ciao. Saluto Gianni. Gianni, Quirix. Oia. E quindi. Non devo più cazzo l'animata, Gabriele, avanti la Baisetti. Un terremoto, raga. C'è molto bispo, dai, l'ho visto stamattina. Allora, io devo rimandare due lavori in casa anche domani. Mi ha chiamato l'avvocato, andiamo a 10 domani. Cioè, no, Alghero, pardon. Che c'è l'altro appartamento lì a fare alcuni lavori, porca miseria, raga. Poi l'ho richiamato, ho detto, guarda, c'è un impegno. No, questa urgenza, vieni con me a fregate, vabbè. Vieni delle luci. Adesso sono sempre assurdi, però mi rompe le palle, raga. ho cercato la scusa agli altri che ho un piccolo imprevisto, urgente, e vabbè. Però voglio pagare che mi lagare un po' tranquillo, che tutta la scelta. La vita è così, o puoi travagliare, o puoi stare per i fatti tuoi. Vabbè, ma io sono già in pensione, anziché. Quindi. E poi, ripeto, almeno un po' di riposo. Tu pensa che domani saliamo per l'una sassa e le due dove c'è il nuovo nell'altro appartamento per finire e mettere il temporizzatore. Insomma, da una cosa all'altra, insomma, per carità. Ce la fai, poi dirai basta, dirai buono, io non ne voglio più fare di sicuro, finché ce la fai, poi vedrai tu. Non è lo sforzo che devo fare mia, mentre i cavi, collegarli, quella cazzata per me, non è un lavoro pesante, capito? Il pesante è che devi stare da una parte all'altra, corri qua, corri là, corri giù, casino, o ti cambia il remo, quello è il fattore, che hai mille problemi, devi pensare a fare quello, a finire quell'altro, all'altro che l'hai sospeso, insomma, lo casino gli dice, boh, lascia un pochettino libero, e invece, vabbè. Andare, finché ce n'è, ce n'è. Avanti Luca. Zero su zero, cosa vuole che vi dica? E quindi tu per me non è meno male, aspetta a te, sei un po' di riposo. No, i miei problemi ce li avevo questi giorni, rientro al lavoro domani mattina, mi sono fatto tutta la settimana in casa, perché martedì mi hanno portato al pronto soccorso, perché avevo la frequenza cardiaca a palla, nonostante fossi seduto al computer, avevo 140 battiti a minuto, manco fossi in salita pedalando. Però va meglio, domani rientro anche al lavoro. Ai cavolo, bisogna stare sereni, se no è un casino. Troppo il cuore, è il cuore che comanda tutto. Andiamo bene, Meda. Io il fattore è che a una signora l'ho detto, ascolti, quando sono più libero sono troppo incasinato il lavoro, che le devo fare un piccolo lavoretto dove le ho messo l'autoclave, giustamente la voglio coprire, e devo fare un ferro L, incimentare la mula e mettere un'ondulina sopra, poi un altro posto ancora, mi prendere le misure di un vetro, andare a comprarlo e piazzarlo. Vabbè, sono sempre lavoro, i soldi neanche in cash, però e sospendi qua, sospendi là, per il fine, boh. E loro vogliono a me, ma entro io già l'aspetto, non c'è problema, io conosco a lì, voglio lì, andare. Lei ha preso la Siria, quindi. Niente, io domani ho intenzione di piazzare questo temporizzatore, invece lo devo andare che. Ma va, faccia, cara. E vabbè, e poi l'ho chiamato, ho detto l'avvocato, ho detto vabbè, possiamo rimandare domani. No, dopo domani, no, assolutamente, è urgente. Ci vediamo come mezzo in garage, io lascio la macchina mia nel suo garage e andiamo con la macchina sua, Alghero. Poi c'è tanto, non c'è tanti appartamenti, capito, l'ha affittato e quindi c'è qualche problema, allora io devo risolverlo. E vabbè. E si va avanti così, dai, l'importante. Che si lavora e si cassa. E così Tonino. E purtroppo, Luca, ci sono passato anch'io per quel cosolio del cuore, con i battiti alti, veloci. Mi sa che gli ho scullato il telefono. Cappa, sì, la mia mamma se mangiavo da lei. No, zero. Ma è una serie di cose, potrebbe essere, siccome sto facendo una cura che dà disidratazione, quindi potrebbe essere un po' di stress, un po' di disidratazione, insomma una serie di cose che mi ha provocato questa cosa qua, mi hanno detto di tenerla monitorata, ma non mi hanno dato né pastiglie né niente, per cui mi hanno dato giusto 3 giorni di riposo per ricaricare le batterie. E come ti ha un bello schiaffo me, non te. Quindi. Però giustamente anch'io per sicurezza me la metto alla cintura e tante cose, capito? Non è per me stesso ma per gli altri che sono handicappati guidando. Guarda, per come guidano le persone, io sono sicuro che a molte persone se le fanno la revisione patente vi la bruciano tutti i gatti. Anche i suoi bravati guidanti, per carità. Quello è sicuro. Come sicuro che riferisce anche a noi che abbiamo la patente dagli anni 80. Dovessimo provare a fare il quiz, oggi come oggi facciamo brutte figure. Però una cosa è fare l'esame, una cosa è guidare. E ci sono molti esaltati in macchina che sono, io li chiamo i piloti di rettilineo, perché in rettilineo sanno fare 200, e in curva che si gaggano. E ce ne sono tanti, convinti di essere piloti, e poi non c'hanno stoffa, e sono i più pericolosi. Ecco, ma io ce l'ho dal 74 la patente, fate il conto. E grazie a Dio mai un incidente, qualche uomo mi è venuto addosso a me, però io mai ho avuto incidente, grazie a Dio. Quindi, sto molto attento, cammino io presso un lancio. Sono solo sulle quattro corsie, posso accelerare un po', ma non più di tanto, perché poi in quel momento penso, io sono andato anche 200 e sono arrivato, poi penso, e se mucco, e se messo un animale, e se messo una ruta, scusa, ma io le penso tutte, quel momento poi rallento e vado 80, capito, non me ne frega niente. Quindi, perché mai di le mani la vita, capito? Un pezzo sì per far, diciamo, spolverare un po' i genitori, però non resta pure, fretta non ce n'è. Io infatti ogni volta che esco, se esco, mezz'ora prima lo faccio sempre, anche un'ora non mi frega niente, mi fermo a bar, mi prendo il caffè, però per avere fretta e andare no, assolutamente, non esco l'ultimo minuto che farò molti e si può raccurri, e poi vedere le macchine, i cuti, o a muro, o a scontri, frontale, eccetera, lasciamo perdere. Andà bene, avanti a tu. Niente, che la genialettica, le cose non va compresa ancora nulla, ma va compreso alla Budi Budi giù, c'è il primo rifornitore che è qua, da questa parte, quello che è giù, facendo giù a Rocca e Paccata, cioè tutti hanno il santo vizio, ha giudito. Se mi biglietti è che mi fanno male, devo stare molto attento. Se mi biglietti, cazzo, me ne posso migliorare la patente. Cioè, tutti nelle strisce zebrate, io se devo girare per il rifornitore, tu non mi puoi tagliare la strada. E uno glielo ha detto, non è che sei un cazzone, ma cosa fa? Cosa si vende? Ma mi vuoi ammazzare? No, cazzo, mi ha parlato male come ti crea qui per la mia, perché ti ripigliare la patente? Cosa si vende? Io c'avevo la freccia per girare il rifornitore, c'avevo. Tutti puntualmente, cioè, tagliano quelli lì. Cioè, aspetta Gabriele, cioè, se tu mi pigli in chissà striscia, te ne pigliare la patente, non ne vedi più me, è pericoloso. Tutti puntualmente fanno questa cosa, io stavo girando il rifornitore a mettermi la benzina. Cioè, e tu mi tagli la strada, cioè niente va nei problemi, va. Ma problemi seri. Così ho che sopra in via Bellini c'è una corsia per girare giù e una corsia per andare dritti. Puntualmente si mettono l'altra corsia, si mettono. Proprio di ridontica. Aspetta Gabriele che prego. Ma guarda, quelle strisce diagonali che fanno per terra è come che fosse un muro, non ci devono camminare sopra le persone. Un amico mio l'ho fatto una multa, che c'era la pattuglia e lui era in quella corsia. No, no, no. Allora se c'è un muro lì si sbatte, ce l'ho capito. E l'ho fatto la multa, e purtroppo è così. Bisogna stare attenti. Quelle strisce diagonali che mettono bianche, che la corsia deve andare forza obbligatoria sulla corsia, perché quella destra c'ha quelle strisce bianche, larghe, diagonali. Quelle come fosse un muro e tu non ci devi passare sopra. È troppo la gente ignorante e brutticchia. Avanti Luca. Sì, tu immagina la gente che ci viene sotto il camion, sotto i nostri mezzi, ai quali facciamo l'assicurazione o comunque si apre un'avvertenza assicurativa, soprattutto nelle rotonde. Ma come pretendi di marciare parallelamente? Se sono due vetture, sì che la rotonda la affrontano in parallelo, ma se c'è una cisterna, un articolato di 14 metri, ma cosa ti metti a passare? Ma io non ho la mia corsia, ma non lo vedi che lui stringe per forza, che è lungo mamare, ma se è arrivata dopo, lui ha già metà la rotonda, si deve pulire, lui lo zighiri a Maragana. Guarda, c'è un'ignoranza in giro che non viene bene a dirsi. Purtroppo. succede Mirko, ma Luca, e purtroppo non puoi farci niente. Gente ignorante, zuccona, che va fretta, che si crede di essere più furbo, capito? E a volte le suono, colpa cosa con braccio e gli faccio il chigno, tu, se si ha le palle fermati. E se le vado via non si fermo perché? Perché sono buffoni. Tanto vuoi che non si ferma nel banco, manco con l'altra. E vabbè. E cosa vuol dire? Purtroppo. Io per bugia che ne sono e io troverò qua, adesso troppo iniziato il giorno almeno quarto. Signori, io faccio QRT e poi ceno. Ci sentiamo domani, sono stato un po' tardi che sto facendo cosa oggi. In tal caso, domani ci sentiamo un po' prima, così ci facciamo un po' di passaggio più lunghi. Ok, da Luca, saluto a Quarea, buona cena quando lo fai, ciao Antonio, ide come sopra, un bacione Gabriele, statevi bene, buon proseguo, alle prossime, e saluto a chi c'è in ascolto, ciao ciao. Ciao Tony, ce la risentiamo alle prossime, avanti lui. Sì, saluto Antonio, ma saluto anche alla, cioè, saluto Attore che sta andando via, ma saluto anche a te Antonio, perché anche io me ne passo in zona Fornelli, che mi organizzo così sistemo un po' tutto, che domani mattina alle 5:30 mi suona la sveglia. Saluti a tutti, buon inizio settimana da affrontare di petto e di prepotenza. Buona serata, ciao a tutti. Ciao ciao a tutti. Saluto. Che mio bambino. Ok. Ciao ciao ciao a tutti, a tutti in generale. Ciao ciao. Ciao ragazzi, anche io chiudo, dai, vado a vedere il mio TG che era al telefono con mia mamma, perché è rimasto. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao. Ciao Cla, ciao, te la risentiamo. Cappa, ok. Ciao ciao a tutti, Tonino, Gianni, mi pare già a portare il cane che l'ho sentito, Luca, te, Attore, insomma, tutti quelli che eravate qua, dai, un saluto circolare a tutti, chiudo, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao.